la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Semplicemente mi piacciono i presepi, mi piace guardarli. Io ho trascorso parecchie ore proprio a guardare il presepe. Mi piace guardare il presepe, mi piace perché mi piace quell'indifferenza, quelli che giocano a carte mentre lì nasce il bambino, gli altri che mangiano. Mi piace, mi sembra molto, mi sembra che ci sia un mistero nella bellezza del presepe che non sono ancora riuscita a cogliere, forse non lo coglierò mai. E allora lo guardo e dico, forse un giorno capirò perché è così bello. Questa è la storia di una ragazzina cresciuta in una famiglia numerosa. 7 fratelli, una casa in cui si legge e si scrive molto, quella dei Morante. È lì che nell'agosto del 56 nasce Laura. Laura Morante esordisce presto in teatro con Carmelo Bene, quasi per gioco. È infatti ancora una bambina. Non ha deciso che cosa vorrà fare da grande. Di certo non la scrittrice. In famiglia c'è già la zia, Elsa Morante, e il padre Marcello, giornalista. In famiglia, come racconterà in un'intervista Daniele Luttazzi, sarà anche la più timida. Mi piaceva il mestiere, nel senso che mi piaceva proprio recitare, mi piaceva proprio il lavoro, soprattutto, non so, le prove a teatro. Mi piacciono tanto. Quando arriva il pubblico mi piace meno. Mi piace tanto provare sui testi, eccetera. E poi mi piace lavorare, vedere le cose che vengono fuori. Poi invece tutto l'aspetto professionale, vale a dire essere un'attrice, rappresentare se stessi, farsi vedere, quello mi piaceva meno. Ora forse mi piace un po' di più. Insomma, perlomeno mi crea meno problemi. Per anni ho proprio avuto difficoltà, avrei voluto avere una sorella gemella che mandavo a fare tutto il resto. A me piaceva solo recitare, il resto non mi piaceva. Tuo padre era impegnato, hai detto, politicamente, eccetera. Tu ti interessi di cose politiche? Ma io sono stata forse di tutta la mia famiglia numerosa, forse la meno impegnata politicamente, perché avevo un problema proprio, forse perché io ero, non sono più, patologicamente timida già. Quindi io non mi sono potuta iscrivere all'università, ho provato 2 volte attraverso un'agenzia, non ci sono mai entrata. Appena vedevo tutti questi giovani, dicevo, oddio, come faccio io a stare qui? E non ci sono andata. E con la politica è un po' la stessa cosa, si manifestava, si doveva parlare, si doveva avere un'opinione, esprimerla. A me non mi riusciva. In famiglia c'è soprattutto il calore di tanti fratelli che influenzerà la vita di Laura Morante. A me, diciamo che la mia vita sicuramente si è influenzata, nel senso che io, ecco, mi è un po' viziata la grande famiglia, nel senso che io non ho sviluppato grandi capacità di costruire rapporti d'amicizia, per esempio. Ho qualche amico, ma pochi, perché in realtà i miei fratelli sono anche sempre stati il mio, così, i miei amici in qualche modo, se ho così come altri si rivolgono all'amico del cuore o all'amica del cuore, io spesso se ho un problema mi rivolgo ai fratelli, i fratelli si rivolgono a me, c'è un rapporto così, diventa anche, cioè siamo fratelli e sorelle, ma tutto questo passato comune, tutto, anche se poi siamo tutti usciti di casa piuttosto presto, però comunque siamo rimasti legati e fanno che vai un po' meno, perlomeno io che magari non ero già dotata per natura troppo per i rapporti sociali, ma vado meno a cercare amicizie fuori. Questo un pochino lo dovrei vincere, perché però col fatto appunto di avere tutti questi questi fratelli e sorelle, ne chiamo uno, ne chiamo un altro. Senta, un'altra domanda che le volevo fare è, invece, questa trasmissione si chiama La Prima Volta. Spesso chiedo agli ospiti di raccontarci il debutto, insomma il momento in cui è stata sancita per loro quella prima volta, cioè quel momento significativo in cui poi il proprio percorso ha preso una direzione. Io ho visto che lei ha iniziato, esordito con Carmelo Bene, però forse era troppo piccola per capire che quello era un inizio di qualcosa. Cioè, c'è una tappa, sì, che secondo lei è stata importante? Ma dunque, io ho esordito come io ballavo inizialmente, ero la ballerina, e quindi Carmelo Bene è stata una parentesi, sono stata prestata inizialmente dalla mia compagnia di danza, perché Patrizia Cerroni, che era che era la nostra coreografa, era una grande ammiratrice di Carmelo Bene, quindi mi ha prestata Carmelo per un periodo e poi sono ritornata alla danza. Dopodiché io ho fatto qualche spettacolo a teatro, ma anche lì erano nei teatrini off, eccetera, erano cose di amici, nelle pause dove non ballavo, eccetera, quando non ballavo. E poi credo che forse proprio il momento in cui è diventato un mestiere è stato il primo film che ho fatto, che è quello di Giuseppe Bertolucci. A quel punto, diciamo, da quel momento in poi non sono più tornata alla danza come professionista, né sono tornata così per divertimento, ma non ho più, insomma, quello è stato forse il momento, quindi il film di Giuseppe è stato proprio il passaggio. Poi il film di Giuseppe era prodotto da Bernardo Bertolucci, che poi mi ha presa per il suo film quasi subito dopo, poi dopo c'è stato Gianni Amelio, quindi è stata una un crescendo Moretti e poi Gianni Amelio, sì. Sì, sono insomma, è lì che non, diciamo, non è diventato un mestiere, mi sono voltata indietro e ho detto faccio l'attrice. È vero che quando girava con Moretti durante le riprese dei film, io avevo letto che lei per ogni film di Moretti si organizzava, trasferiva le bambine, prendeva in affitto l'appartamento? No, questo quindi... è un po' esagerato, l'ho fatto solo per La stanza del figlio, perché La stanza del figlio si annunciava come un film lungo, complicato, sofferto. Nanni ha avuto varie così momenti di angoscia durante le riprese, ci siamo fermati, poi ci sono stati degli scioperi. Allora, ovviamente, io avevo due figlie all'epoca e la più piccola era ancora piuttosto giovane, e quindi insomma l'ho portata con me ad Ancona, perché avevo capito che le cose sarebbero andate per le lunghe, effettivamente così è stato. Insomma, mi sono trasferita in pratica per parecchi mesi, insomma, ad Ancona. Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down. La stanza del figlio, un film del 2001, racconta la storia di una famiglia e del dolore per la morte del figlio. Una storia tanto forte, un tema che spaventa solo ad evocarlo e che Moretti racconterà con tanta pazienza e una delicatezza inarrivabili. Guarda questa tazzina, che bella, è sbeccata questa tazzina. Questo vaso è incrinato, rigiriamolo. Tutto sbeccato, tutto rovinato in questa casa, tutto rigato, tutto rotto. Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Il ladro, il padrone di casa, ma che cazzo di frase è questa? Ma che frase è? È una frase, Giovanni, che importanza può avere? Ma che frase, ma che frase? Ma che significa? Ma che frase è? Giovanni, non importa. Questo posacenere, guarda. È sbeccato, nascondiamolo, via. La mia teiera preferita, l'abbiamo rotta, poi l'abbiamo rincollata. L'abbiamo incollata bene, non si vede niente, eh? Non si vede che è rotta. E invece anche questa... La prima volta. Questa è la storia di Laura Morante, cresciuta in una famiglia numerosa. Sarà una madre attenta, un'attrice timida che del suo mestiere, dirà in un'intervista, ama la parte dello studio, le prove, molto meno il momento in cui si va in scena con il pubblico. Per anni rispondevo, mi piace il mestiere dell'attrice, non mi piace la professione. Ma non so se poi è tanto ben detto, ma io avevo trovato questa formula perché mi piaceva il mestiere nel senso che mi piaceva proprio recitare, mi piaceva proprio il lavoro, soprattutto, non so, le prove a teatro. Mi piacciono tanto, quando arriva il pubblico mi piace meno. Mi piace tanto provare sui testi, eccetera. E poi mi piace lavorare, insomma, mi piace lavorare, vedere le cose che vengono fuori. Che... Poi invece tutto l'aspetto professionale, vale a dire essere un'attrice, rappresentare se stessi, farsi vedere, quello mi piaceva meno, ora forse mi piace un po' di più. Insomma, perlomeno mi crea meno problemi. Per anni ho proprio avuto difficoltà, avrei voluto avere una sorella gemella che mandavo a fare tutto il resto. A me piaceva solo recitare, il resto non mi piaceva. Un'attrice che cerca, scrive, che guarda, ma che non smania di arrivare per prima o sempre nel posto migliore. Oggi, dopo una lunga carriera, un film scritto, diretto e interpretato, la Morante è tornata a teatro con The Country di Martin Krimp. In realtà io volevo tornare a teatro già da un po', insomma ci pensavo già da un po', poi non poi vabbè, ovviamente ho avuto il mio film, varie altre cose, insomma, che e poi insomma continuavo a rimandare questo ritorno fino a che mi sono decisa e ho chiesto, quindi volevo fare un testo contemporaneo e così volevo anche contribuire perlomeno a far conoscere un po' un autore magari non troppo conosciuto in Italia, Krimp è già stato rappresentato, ma insomma non moltissimo. E quindi ho chiesto ad Alessandra Serra, che traduce dall'inglese anche dal francese, eccetera, di mandarmi dei testi contemporanei, le ho detto ovviamente non una cosa troppo produttivamente pesante, quindi pochi personaggi, eccetera. Allora, nell'ambito di questa cosa qua, di questi diciamo limiti che le ho posto, Alessandra mi ha mandato una serie di testi e di questi testi, tra questi testi quello che mi era piaciuto di più era questo di Krimp, se non che facendo un piccolo sondaggio così così fra amici e famiglie eccetera, ho fatto leggere questo testo, tutti dicevano molto bello, ma è un testo abbastanza complesso, non so se il pubblico italiano come lo riceverà, eccetera eccetera, insomma. E allora alla fine mi sono orientata su un altro testo che a me piaceva meno, che non era brutto, ma mi piaceva meno, era un testo a due personaggi francese, e a quel punto attraverso la mia agente ho contattato, attraverso Moira Mazzantino ho contattato Andò gli ho fatto leggere questo testo francese. E poi però non ho resistito alla tentazione, gli ho detto: senti però Roberto, io ti devo confessare che io ero innamorata di un altro testo, me l'hanno sconsigliato tutti, quindi non so cosa dire, io però vorrei che tu lo leggessi. E lui l'ha letto e invece lui è stato deciso e proprio assolutamente impavido, e mi ha detto: no, è questo il testo che dobbiamo fare, è molto più bello, molto più interessante, e quindi secondo me invece c'è un pubblico per questo teatro e comunque insomma, vale la pena farlo, vale la pena tentare. E quindi insieme abbiamo deciso di portarlo avanti. Questo, sì, e quindi in questo senso, da questo suo racconto emerge proprio una determinazione sua. Lei lo fa sempre, cioè diciamo nella scelta dei personaggi, di fare questo percorso, cioè si interroga spesso se vale la pena meno, insomma qual è il percorso che la porta poi a scegliere? No, in realtà io sono raramente, forse perché sono troppo pigra, all'origine dei progetti, insomma, diciamo che in questi ultimi anni mi sono un pochino più, nel senso che avendo scritto delle cose sono ovviamente sono stata poi io a proporle ovviamente, quando scrivi, io ho scritto in questi ultimi anni tre trattamenti sceneggiature insieme a Daniele Costantini, e quindi sono ovviamente quando sei proprio all'origine di un progetto è chiaro che poi sei tu che lo devi andare a proporre, se no in generale io raramente sono stata così alla in genere aspetto che mi chiamino, ma non sono molto intraprendente, purtroppo mi piacerebbe esserlo di più, ma non, beh, non però è molto fino il mio carattere. Fino a questo punto mi sembra che insomma come carriera sia stata lineare, non ci siano stati strappi né scivoloni, la sua carriera è ineccepibile anche nella scelta dei registi. Ineccepibile non no. È assolutamente, anche perché essendo per fortuna piuttosto lunga ci sono stati come momenti difficili, cose che non sono ho fatto qualche brutto film, sicuramente brutto spettacolo, non è vero, non è ineccepibile per niente, ma d'altronde sarebbe strano il contrario, forse una carriera ineccepibile mi farebbe quasi paura. Se l'ho detto sempre, io ogni tanto parlando con i giovani attori mi è capitato, cioè, l'ho già raccontato, ma cioè, giovani attori che li vedo così, quando li vedo troppo preoccupati per la carriera, che magari già al secondo secondo e terzo film hanno paura di fare un errore per la carriera, diciamo, ah, non so se è il caso di fare questa cosa. E ogni volta io rimango a bocca aperta e dico, ma questo è un mestiere, si impara, cioè come fai a non fare errori? Sarebbe come se tu dicessi, se volessi fare il capitano di lungo corso, e dicessi però io vado in mare solo quando il mare è piatto, se no, rimango in porto. È così che impari, cioè io penso che bisogna rivalutare la porzione di mestiere, di artigianato che c'è nel nostro lavoro, perché se no se diventa solo una questione di carriera, boh, a me interessa meno, ecco, mi sembra un po' una cosa da folli, senza anima. Quindi gli errori fanno parte, gli errori, ma anche non soltanto errori, perché ogni tanto uno deve, poi non lo so, beati coloro che non hanno problemi di sopravvivenza, ma coloro che di questo mestiere vivono non soltanto fanno errori, ma fanno anche consapevolmente delle cose che sanno che non sono un granché, ma che devono fare per lavorare. Ecco, farne un dramma mi sembra una cosa sciocca. Uno va a fare, certo, se può evitare, anche a me piacerebbe fare tanti bei film e solo lavorare con grandi, però al limite è la cosa buffa e un po' paradossale di questo mestiere, che quasi si impara di più facendo dei brutti film che facendo dei film belli, perché salvare la pelle in un brutto film è una cosa difficilissima, è veramente come prendere il mare in tempesta, cioè se tu hai un buon regista, una buona sceneggiatura, dei bravi collaboratori, un buon direttore di fotografia, alla fine essere bravi è abbastanza facile. Ma salvarsi invece in un contesto terribile è un'impresa veramente titanica. Quindi, paradossalmente, forse non aiuta la carriera, ma aiuta l'apprendimento del mestiere. Ma non lascia anche un po' d'amaro, diciamo, insomma, essere parte di qualcosa che poi alla fine non piace, non convince? Ma certo, si preferisce sempre essere ripercorrendo la propria cosiddetta carriera, cioè il percorso professionale, si preferisce sicuramente vedere tutte cose belle, anche perché stare in una cosa bella fa proprio all'anima, a prescindere ma è l'idea di pensare il mestiere in termini soltanto di carriera che è un pochino, per me è un pochino estranea alla mia indole. Sì. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi, tap tap tap tap. Ma i tuoi piedi, tap tap tap tap. Laura Morante vanta una carriera con film meravigliosi, molti girati sotto la guida di Nanni Moretti, come il film Bianca, forse uno dei più bei film di Moretti. Sai, stanotte pensavo che ieri è successo qualcosa di nuovo per me, un cambiamento che non so se mi va bene. Quando c'è un legame non puoi solo osservare, tu stai qui, gli altri sono lì. No, non è più possibile, bisogna mettersi in gioco. E questo... E poi io non sono abituato alla felicità. Mi prendi in giro? Stai giocando? Non riesco a capire quello che dici, se è una cosa bella o una cosa brutta. Sei innamorato di me? Credo di sì. E come è successo? Un giorno ti ho visto a scuola. E poi? Mi interessava come camminavi. Mi prendi in giro? No, non ti prendo in giro. E secondo te io ti amo? Non lo so. Senti, ma oggi il preside, ma chi c'aveva da rivedere? No, aspetta, rispondi. Io ti amo. Non vedo perché. Veramente, Perché? Lo vuoi sapere? A questo punto sì. Allora, prima di tutto perché fai domande ossessive fuori luogo a una signora, come se fosse una cosa normale. E chi sarebbe la signora? E poi perché sei buono. Io? Sì. Tu sei un uomo buono. Ma che discorsi? Ma sei impazzita, io buono. No, aspetta, vieni qua. No, davvero, non so come spiegartelo, ma tu non mi puoi fare del male. Ma che ne sai? Lo so. Io invece non lo so. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per averci seguiti. Ci ritroviamo domenica prossima alle 13:30. Ci potete riascoltare in podcast. Venite a trovarci anche sul nostro blog. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. You keep saying-